Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo Valeria Bernardi oggi in regia con noi alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo con il nostro sommario. Sai dire di no al tuo bambino? Proviamoci insieme. Un cucciolo per amico. Riscopri l'antica saggezza. Bene, bene, riprendiamo le buone abitudini e oggi, secondo martedì del mese, come da tradizione, la puntata è dedicata alle mamme di Radio 24, che dopo aver scelto e votato l'argomento del mese sul sito blogmamma.it, che tra l'altro è tutto rinnovato, uno splendore, entrano in trasmissione con due simpaticissime rappresentanti, Yolanda. Ciao. Ciao, ciao a tutti. E Veronica. Ciao, buona giornata. Il nostro consulente del martedì delle mamme è in linea, oggi non è qui con noi, ma è come se lo fosse, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, nonché papà ufficiale di Questa casa non è un albergo, la trasmissione del sabato in cui noi genitori ci confrontiamo, facciamo rete. Alberto. Ciao Nicoletta e saluto anche le mamme. E oggi, dato che vi stiamo per proporre, come avete sentito anche dal titolo, un argomento particolarmente impegnativo, i no che fanno crescere i nostri bambini, io ho chiesto Manforte. Qua in studio, in carne e ossa, abbiamo Tata Lucia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io, Tata, devo dire, non faccio finta perché, insomma, ti do del tu. Certo, e quindi, perché certo, noi ci conosciamo, tra l'altro ne abbiamo parlato di questo bellissimo libro, Fate i bravi. Sì. E noi proveremo ad insegnare ai genitori a fare i bravi, a dire i no che fanno bene e a insegnare ai nostri bambini a rispettarli. Tutti sì. Noi genitori abbiamo imparato che è molto più facile per noi dire di sì che dire di no, ma tutti noi sappiamo che anche se ci viene difficile è importante che ci impegniamo a dire no ai nostri bambini. Uso proprio il termine bambino perché le regole si insegnano da piccoli. Tata. Le regole si insegnano dal giorno zero. Io non sono completamente d'accordo che si debbano dire tanti no. Brava. Bisognerebbe, come dico spesso nei miei libri, modificare l'antecedente, soprattutto col bambino piccolo, che è fisico soprattutto, usa la sua fisicità. Allora, un bambino piccolo che grazie a Dio ha appena imparato a toccare, se come tocca il vasetto di vetro si sente dire no, è proprio una cosa che lui sente come un'opposizione sbagliata. Quindi la mamma, invece di dirgli no, deve prendere il vasetto di vetro e metterlo in un modo imposto irraggiungibile, cosa che tutte le nostre nonne facevano. La casa a un certo punto diventava accessibile solo per quanto il bambino poteva toccare. Certo. Quindi questo è molto importante. Tata, possiamo dire pochi ma buoni. Esatto. Alberto, quali sono i no buoni, quelli che servono? Ma intanto ci sono dei no fondamentali perché proteggono proprio la sicurezza del bambino, lo tutelano dal mettersi nei rischi e questi sono i primissimi no che un bambino ha bisogno di sentirsi dire quando diventa un esploratore del mondo. Deve poter esplorare in grande sicurezza, quindi gli adulti, come diceva la Tata, devono preparargli un ambiente a sua misura, ma quando però sta per mettersi nei pericoli, lì il no della mamma e del papà servono proprio a evitare che si faccia male. Esatto. Ecco, tu, Alberto, parli delle mamme e dei papà. Prima di dare, di chiedere alle nostre mamme i no che le mettono più in difficoltà, voglio già anticipare ai nostri amici da casa che parleremo anche dei no, delle regole che dividono la coppia. Capita spesso, la mamma dice no, il papà dice di sì o viceversa, certo. Si crea grande confusione e si litiga. Ma allora, Yolanda, qual è il no in questo periodo della vita dei tuoi bambini che ti mette più in difficoltà? Che non si sta troppo alzati la sera. Mandarli a letto è difficilissimo e diventa più crescono e più diventa difficile. Solo che poi la mattina chiaramente è dura, certo, alzarli. Sono loro che ti dicono di no, non mi alzo. Esatto. Veronica, a te come sta andando? Ma allora, innanzitutto io sono estenuata dalla contrattazione. nel senso che la contrattazione inizia con la sveglia e finisce con l'andare a dormire, dove c'è la finale contrattazione della giornata. I bambini sono piccoli, quindi estremamente esuberanti e curiosi. Io lo prendo come un fatto di intelligenza, almeno me lo auguro. Certo. Io li lascio fare tutto, perché ritengo che sia giusto che facciano tutto, però li devo sempre contenere, quindi cerco di dire il no affinché l'esperienza venga fatta con i tempi e i modi giusti. Per esempio, la televisione non troppa, il bagnetto non deve diventare un allagamento della casa, il pastello non deve essere usato sul muro, faccio esempi estremamente banali, perché non voglio privarli di queste esperienze, però è molto faticoso. Ecco, forse l'errore lì sta nella contrattazione fatta al momento del fatto che succede. Anche qui dovrebbe essere fatta come antecedente. Allora, hai 10 minuti per fare il bagno. Hai 10 minuti per metterti il pigiama. Cioè, prima che il bambino entri in crisi perché vuole continuare a fare, sì. Capito? Bisogna giocare d'anticipo. Yolanda? Domani mi compro una bella sveglia colorata. Sì. Veramente. Sì. Mi ha fatto venire proprio un'idea la tarta. Certo. E a quel punto lì dargli un tempo fisso, esatto, per le varie cose. Esatto. Certo. Esatto. Magari anche una sveglia un po' divertente, un timer. Il timer fantastico. È utilissimo con la maggior parte dei bambini. Ci sono dei bambini che sono insofferenti al timer, attenzione, perché si mettono in ansia e pensano che di non fare... A me metterebbe già un po' di affanno questo 10 minuti, però, poveri bambini. Però se tu contratti bene l'antecedente, cioè tu vuoi vedere questo cartone dura mezz'ora, vediamo dove possiamo collocarla nel pomeriggio questa mezz'ora, in modo che tu te lo vedi, capito? Allora, questa è già un'indicazione, aspettiamo le vostre, ai genitori in ascolto, ai papà in ascolto, non solo alle, certo, mamme. Giovanni da Salerno mi scrive subito: perché solo le mamme? I papà che spesso fanno il lavoro delle mamme, dove li mettiamo? Quali consigli per loro? Alberto naturalmente darà anche consigli per i papà, ma può dargli la tata. Io, certo. I papà in ascolto, 800 24 00 24, ditemi di sì, chiamate e scriveteci 349 238 6666. Una mela al giorno. E a grande richiesta torniamo a parlare della relazione tra noi e i nostri amici a quattro zampe. Oggi in particolare ci occupiamo dei cuccioli di cane. Lo sappiamo che resistere al loro fascino è praticamente impossibile. Loro ci conquistano subito, uno sguardo, una leccatina, uno scodinzolio, poi quel musino. Però tutte le storie d'amore hanno anche dei lati un po' negativi. Insomma, non sono solo rose e fiori. Questo è giusto saperlo, credo, per evitare incomprensioni, litigi, soprattutto abbandoni. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Paolo Zucca, ricercatore in psicobiologia animale presso l'Università di Teramo e autore di Il comportamento degli animali, Carocci Editore. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Professore, abbiamo fatto con lei delle puntate intere sulla relazione tra noi e i nostri amici a quattro zampe. Lei più volte ha sottolineato che il cucciolo non si dovrebbe mai scegliere con leggerezza. Però lo sappiamo che molto spesso i cuccioli vengono regalati ai bambini o dai nonni, dagli zii, oppure si va in un canile, si vede il cucciolino e si porta a casa. Insomma, tante volte agiamo distinto, facciamo più parlare il cuore che il buon senso. Beh sì, è un fenomeno emozionale, diciamo, molto forte al quale non sappiamo resistere, però potendo così pianificare un po' la scelta sarebbe importante decidere a priori, diciamo, non soltanto la razza, che è importante, ma anche prendere in considerazione il fatto che non dobbiamo parlare di cani al plurale, ma dobbiamo parlare di cani al singolare, cioè esistono i singoli individui con i singoli caratteri, pertanto dopo aver deciso più o meno quale razza ci interessa o fa per noi, fa il caso nostro, sarebbe così utile così fare una selezione rispetto al carattere del singolo individuo all'interno di una cucciolata, cioè ecco, è un animale più o meno sociale, sì, più o meno timoroso. Diciamo che ci sono dei test standard che possono essere fatti e che si trovano normalmente su tanti testi e che possono essere utilizzati anche da persone che non sono iper esperte in questo ambito, però ti danno un po' un'idea di quello che potrebbe essere il carattere futuro. È chiaro che la certezza non esiste, però se uno può, voglio dire, se ha la possibilità di mettere in atto questa scelta, è bene che lo faccia. Mi insegni un test al volo, professore? Ma una cosa banalissima è quello di battere le mani mentre i cuccioli ad esempio stanno mangiando e vedere chi scappa o meno. Io ricordo un episodio, dovevamo scegliere i cuccioli per diciamo una forza di polizia, a un certo punto io stavo per battere le mani ed è passato un elicottero, facendo un rumore incredibile, e ne è rimasto solo uno. Gli altri sono tutti scappati a raggiera, sono partiti in tutte le direzioni, tranne uno che poi è diventato un bravissimo cane poliziotto. Insomma. Ecco, io la ringrazio per questo consiglio, quindi che diamo alle persone che sono in... È difficile dare una definizione così, dare istruzioni generiche, no? Ogni caso certo. Chiede la sua... Però intanto questo ci dà un'indicazione. D'altronde, professor Zucca, noi ci rendiamo conto che quando il cucciolo entra da noi a casa, dopo qualche giorno capiamo che non è un peluche. Basta poco, perché ci accorgiamo che questi animalini, pur piccoli, teneri, deliziosi, richiedono impegno, costanza, attenzione. Dobbiamo capire tanti aspetti della loro vita. Ad esempio, sono pieni di energia, ma sono scarsamente preparati a rimanere attenti per lunghi periodi di tempo. Per cui, quando noi cerchiamo di insegnar loro qualcosa, dobbiamo farlo in maniera molto breve e concisa. Deve essere molto chiaro, no? Perché imparare è molto faticoso, quindi la sessione di addestramento deve durare abbastanza poco se il cucciolo è molto piccolo. Professor Zucca, io non so cosa pensa lei, ma io credo che educare un cucciolo sia, è vero, un esercizio impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e di scoperte. In un certo senso, in questa relazione, noi scopriamo anche lati del nostro carattere che non conoscevamo a fondo. Questo sicuramente, insomma, mi viene in mente uno studio pubblicato di recente, a mio avviso molto molto simpatico e carino, che va a indagare un po' la personalità dell'uomo e che di fatto dice che chiunque educa o ha un cucciolo non deve mai mentire al proprio cucciolo, perché si è visto che i cani sono capaci di provare emozioni complesse e in particolare sono in grado di capire il senso della giustizia, cioè non dobbiamo mai dir bugie o trattarli male perché se ne accorgono. Professore, noi continueremo a sentirci per aiutare anche i nostri amici a educarsi nella relazione reciproca con gli amici a quattro zampe, quindi invito anche gli ascoltatori, se hanno delle domande da farci, delle cose da sottoporci, di scriverci a esserebenessere@radio24.it. Professor Zucca, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. E torniamo a parlare di cuccioli, ma questa volta di cuccioli d'uomo e dei no che aiutano a crescere. Abbiamo detto pochi ma buoni, sì. E soprattutto i no vanno condivisi all'interno della coppia, certo. Non un genitore che fa il mollaccione come mi sta scrivendo Alberto, non l'Alberto Pellai nostro, e invece la mamma rigida. Ma in linea con noi abbiamo un amico che vorrebbe tanto tornare bambino. È in linea con noi Gabriele Cirilli. Gabriele, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia, buongiorno dal mollaccione numero uno. Perché sei un mollaccione tu? Ma io ho l'animo da bambino, quindi io sono un bambino in realtà. Non sono mai cresciuto e quando strillo sempre voglio tornare bambino è perché da grandi si hanno troppe responsabilità e non ce la faccio ad assumerle. Io voglio essere bambino, mi voglio permettere di fare marachelle, come per esempio l'altro giorno mio figlio che ha 8 anni e mezzo, quasi 9, sì? Mi ha fatto papà, era il mio compleanno, mi fa papà ti ho fatto un regalo, un posacenere. Io ho detto, ma che c'entra il posacenere, amore? Io non fumo. Te ricominci a fumare appena vedi come ti ho riverniciato la macchina. Ecco, capito? E io non voglio fare le marachelle, voglio pretendere come fanno sempre loro. Per esempio l'altra settimana mi fa, papà, nella busta paghetta di questa settimana ti sei scordato gli assegni familiari. Faccio familiari perché i gormiti sono tutti a carico mio. Ma senti, ma è magnifico. È simpaticissimo. Capito che figlio che c'ho, eh? È certo. Uno che mi ha preteso il TFR, eh? Papà, voglio un TFR, l'anticipo. Sì. Ma te che cos'è? Trattamento di fine rapporto per quando me ne vado? Cioè, e io gli ho detto, guarda, per adesso ti do un CNC. Che papà? Calcio un culo fino a quando resti. Perché questo è un no, questo è un no. Ecco, pochi ma buoni. Pochi ma buoni, ma qualche no riesci a dirlo anche tu. Allora, io... ma molto pochi. C'è mia moglie che più no. Diciamo che io il fatto che sono sempre fuori per lavoro è una scusa banale, sì, è una scusa banale, lo so, lo so. Però ecco, per esempio ieri abbiamo fatto una litigata perché gli ho comprato 20 bustine dei cacciatori panini, sì, figurine, e mia moglie fa: potevi farne 2-3 ogni tanto, perché 20 così insieme? Poi lui ne pretende sempre 20 e quando gli dici di no poi si arrabbia. E c'ha ragione, c'ha ragione. C'ha ragione lui? Insomma, no, c'ha ragione lei. Ah, pensavo già al punto. C'ha ragione lei. Dato che ti senti bambino. Senti, però obiettivamente è un po' anche la fotografia che emerge dagli sms che stanno arrivando al 349-238-6666. Ci sono tanti Gabriele in giro, perché molti papà mi stanno scrivendo. I nonno riesco a dirli perché arrivo a casa poche ore, lo vedo mezz'ora prima che lui vada a letto, come fare in quella mezz'ora a dirgli di no? Quindi allora, scaricano sulle mogli. Ci tengo a puntualizzare una cosa, io non è che lo vedo mezz'ora e vado a letto, no, io certo. Quando ci sono, 24 ore su 24, il problema è che viviamo al nord, quindi lui non ha qui nonni, zii, che possono viziarlo come succede di solito, e quindi io faccio un po' da nonno, da zio, da padre, da cugino, da fratello, un po' da tutto. Bene, senti Gabriele, noi tra poco ti vedremo a Zelig. Sì, dovrei rientrare, diciamo che è quasi una certezza, ma ho presentato dei monologhi nuovi, sono piaciuti, adesso aspetto solo la chiamata. Allora, e vediamo. Allora dici di sì, che ti rivedremo a Zelig. Sì, probabilmente sì, sì. Un abbraccio a Gabriele Cirilli, grazie. Grazie, un abbraccio a voi, buona giornata. Un simpaticissimo mollaccione. Baci anche al tuo bambino. Grazie, grazie mille, un bacio a voi. Abbiamo Barbara che ci chiama dalla provincia di Genova. Buongiorno Barbara, benvenuta. Buongiorno, intanto volevo approfittare, se ancora in studio, di salutare Yolanda, che sono iscritta a un suo sito e che trovo molto molto bello e molto, insomma, che grazie aiuta mille. Molto le mamme a confrontarsi. Grazie mille Barbara. Ciao. Allora Barbara, raccontaci, ci racconti. Io di non ne dico tanti e mi costano molta fatica perché appunto quando si vede poi... Scusate, sono un po' emozionata. No, ma Barbara, capita, eh. Io dici quanti anni ha il tuo bambino? Ah beh, io ne ho due, una bimba di 6 anni e una bimba di 20. Ah beh, quindi... Di 20 mesi. Ah, di 20, pensavo di 20 anni, perché ci sono di secondi, ci sono delle famiglie molto allargate, certo. E con fratelli con un'età molto... No. Bene. No, è l'emozione che mi gioca molto. Senti Barbara, quindi tu dici tanti no. Alberto... Ma io sono la severa di casa, nel senso che mio marito comunque, diciamo che non è il mollaccione, o quantomeno, poiché io ho ruolo di severa, quando io dico un no e la bambina si rivolge al papà, il papà di rimando dice: senti cosa dice la mamma, per cui diciamo che ci troviamo d'accordo, nel senso che ecco, non c'è questo sbilanciamento. Io vorrei sentire il parere di Alberto. Alberto. Mi sembra una fotografia che un po' ci racconta la trasformazione dei ruoli genitoriali, mentre tutti noi siamo cresciuti con un papà che diceva no e la mamma che diceva quando torna papà glielo diremo, adesso sempre più frequentemente in realtà sono proprio le mamme probabilmente più presenti che sostengono il no. È fondamentale però quello che diceva proprio la nostra ascoltatrice, ci deve essere un'intesa totale educativa tra mamma e papà, per cui se il bambino prova a far breccia sul genitore più vulnerabile, su quello che percepisce come più debole, allora tu mi dai il permesso perché la mamma mi dice no, è fondamentale che a quel genitore dica: se la mamma ha detto così è quello che dobbiamo fare, cioè si crea un'alleanza educativa forte tra mamma e papà. Veronica, tu sei riuscita? Io sono molto fortunata perché vado d'accordo in questo con mio marito e abbiamo un trucchetto. Quando ecco. Abbiamo dei dubbi, adesso direte che snob, ma effettivamente è un trucchetto che consiglio. Quando abbiamo dei dubbi, anziché dire di fronte ai figli devi fare così, devi fare cosà, però c'è bisogno di uno scambio veloce, parliamo in inglese. Benissimo. Per non farci capire. Ecco. E infatti mio marito mi ha detto che i suoi genitori, che erano di un'altra generazione, parlavano in francese di fronte a lui e a suo fratello. Finché poi non l'hanno studiato hanno capito. Certo. Se no però... si può fare l'alfabeto farfallino. Ve lo ricordate quando lo facevamo quello noi lo conoscono a scuola? Già. Subito. Però scritti. Io dico che è giusta questa cosa. Però io ricordo che si può benissimo, quando c'è una discordanza, per esempio quella sulle figurine, sì. Fare di nuovo l'antecedente, mettersi lì seduti e dire: va bene, allora tu ti puoi guadagnare tot figurine al mese, Certo. Come le vuoi suddivise? Cioè, rendere responsabili, perché semplicemente dire no o dire sì non rende responsabile il bambino di sé, che invece è la cosa che noi vogliamo ottenere. Yolanda voleva intervenire? Sì, nel senso, mi ha fatto venire in mente sempre la tata questa cosa. Su uno dei siti ho messo un capricciometro. Sì. Nel momento dei proprio sì. dei capricci, no? Sì, sì. Per cui lo pendevo sul frigorifero e ogni sera facevamo una crocetta, c'erano queste faccine, sì, no? Sì. Sorridente piuttosto, certo, che triste. Che arrabbiate. E alla fine della settimana, a seconda delle giornate in cui era la faccina sorridente o triste, c'era un piccolo premio, una sciocchezzuola, ecco. Certo. Questo è il rinforzo, vero? Il rinforzo positivo. Non solo, ma abitua il bambino non a sentirsi punito, ma in grado di raggiungere un obiettivo che fa crescere la sua autostima in modo esponenziale. Eccoci, siamo tornati, abbiamo un appuntamento con Antonella che ci chiama da Prato. Antonella, ribuongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo proporre una domanda alla tata Lucia. Sì. Allora, praticamente io ho due bambini, uno di 10 e la bambina di 7. Il bambino di 10 è molto polemico, lui contesta sempre tutto, e praticamente anche a scuola, anche le maestre mi dicono sì, bravissimo, però contesta, è sempre a brontolare, se c'è qualcosa che secondo lui... mi è simpatico. Insomma, a calcio idem uguale. Allora, io volevo sapere se questo sicuramente fa parte del suo carattere e poi se magari ha contribuito anche il fatto che io sono abbastanza rigida, nel senso che ho detto molti no. E forse lui adesso protesta in questo modo, cioè, Antonella, mi fa un esempio, ad esempio l'ultima contestazione di questo piccolo grande uomo? Allora, proprio ieri, per dire, agli allenamenti di calcio, il mister ha chiesto a chi voleva fare il portiere, lui si era proposto e il mister gli ha detto di no perché lo voleva vedere in un altro ruolo. Lui ha preso questo no come una cosa invece contro di lui, ecco, gli è sembrato quasi una cosa ingiusta e quindi anche lì ha brontolato, ma perché io no, senza magari capire che forse era una gratificazione quella che gli voleva dare, perché è un attaccante, quindi insomma metterlo in porta sarebbe stato forse più una punizione che un merito. Certo. E lui vede, è un giustiziere, nel senso anche a scuola lui difende anche gli altri, lui contesta per dire se la maestra dà una punizione che secondo lui la ritiene sbagliata, lui comunque deve intervenire e giustificare il bambino a cui era stata data la punizione, insomma è un po'... Insomma, è già poi un bel toscanaccio, con la passione. Sì. Tata, che fare? Ma io direi che a questo bambino non riconosce nella maestra, nella mamma, nell'allenatore, l'autorevolezza di chi sa. E quindi pensa sempre che gli contestino la sua libertà. Invece libertà vuol dire conoscenza e vuol dire saper scegliere. Allora, chi è proposto a fare un determinato lavoro, tipo l'allenatore, deve poter scegliere. E certo. Quindi bisogna insegnargli a non contestare, ma ad arrivare a capire il perché, perché poi ha già 10 anni, quindi è un bambino che può benissimo ragionare. Alberto, tu che strategie suggeriresti? Perché i contestatori sono tanti dai messaggi che arrivano, bambini che non ne vogliono sapere, quindi o rispondono, o fanno i musi, o dicono non mi interessa, faccio così lo stesso, come quello di Adele, che si fa? Allora, se siamo tranquilli rispetto al nostro ruolo educativo, sappiamo che a questi bambini abbiamo dato già molto tempo e molta pazienza, ecco, direi che a volte ci sono bambini che si trovano di fronte alle loro contestazioni, adulti che fanno spiegoni lunghissimi, come se fosse necessario doverli convincere di una decisione dell'adulto. Certo. A volte è proprio fondamentale fermare, è no perché no, e non puoi più dire mezza parola, e non dobbiamo avere paura che quel bambino si senta mortificato, deluso dal nostro atteggiamento molto forte, perché il problema sarebbe se i bambini si sentissero dire sempre no perché no, cioè non riuscissero a intuire di avere un loro spazio di contrattazione. A volte però sentire che c'è un limite che non può essere oltrepassato, perché certe cose sono nelle mani dell'adulto che decide, alla fine li tranquillizza anche molto. Certo. Loro vorrebbero contestare ma non sanno dove vogliono arrivare, e l'adulto gli dice ci penso io. Andiamo a Crema, c'è Carmen. Buongiorno Carmen. Buongiorno a tutti e grazie per l'utilità della trasmissione, un grazie particolare alla Tata Lucia di cui sono una fan incredibile. Grazie e a te. Sono proprio poco contenta del fatto di averla conosciuta solo negli ultimi 2-3 anni. Ho due bimbe di sarebbe stato importante averla conosciuta ancora prima di diventare mamma, che così imparavo un po' più di cose. Vedi, allora per le nostre ascoltatrici che non sono ancora mamme, quindi mi raccomando, fate i bravi 0-3 anni. Allora Carmen, complimenti alla Tata parte. Sì, ecco, io ho queste due bimbe di 3-5 anni molto molto capricciose, seguendo spesso anche i consigli della Tata, appunto di restare indifferente ai capricci. Qui è molto difficile la situazione perché questi capricci si protraggono per veramente dei tempi insostenibili da parte mia, a volte del papà quando la sera è presente, e anche dei vicini di casa che veramente non ne possono più. Ecco, dicono: quando è che andate un po' in vacanza? Esattamente. Ecco, Tata, un intervento rapido. Intervento rapido e mettere subito in atto il time out, che è ben spiegato anche nei miei libri, cioè un angolino della casa dove ci sia una seggiolina, e quando il bambino entra in un capriccio inspiegabile, un capriccio proprio semplicemente così, si va a sedere, gestisce il suo capriccio sedendosi lì un attimo e calmandosi. Quando è calmo se ne può parlare. Si usa ancora, perché ai miei tempi, io quando ero piccola mi ricordo che noi avevamo vai nell'angolo. Esatto. E io l'ho sempre trovato molto ingiusto, non mi piaceva per nulla. Poi quando riuscivo ad essere nell'angolo vicino a mia sorella, ce la contavamo e ridevamo. Certo. E lì mia mamma non ci ha più messo nell'angolo. Ma vedo che Veronica vuole intervenire. Ma io lo chiedo a Tata Lucia, perché adesso qui c'è un Santa Santorum. Ma io ho provato a fare sto time out, però il figlio non ne vuole sapere, scalcia, non obbedisce, non sta seduto, certo, sulla sedia. Certo, i primi tempi, soprattutto con i bambini piccoli, bisogna proprio avere la costanza, cioè si alza, lo si riporta lì, si alza, lo si riporta lì, fino a quando si calma. È quello che dovrebbe fare l'adulto che reagisce col bambino sollevandolo di peso e strillandogli. Non mette in atto la gestione della rabbia, si arrabbia e il bambino quindi ripete lo stesso atteggiamento. Se invece l'adulto dicesse: guarda, sono proprio arrabbiata, adesso mi siedo qui un attimo, mi calmo e poi ne parliamo. Quindi il anche bambino, per gli adulti funziona, esatto, l'angolino. Alberto, anzi, tu sei d'accordo? Sì, io sono completamente d'accordo. Credo che i due errori principali siano, come diceva Tata Lucia, che l'adulto di fronte al capriccio del bambino si arrabbia anche lui, cioè esonda le sue emozioni e non riesce a tenerle sotto controllo. Quindi fuori dalla realtà, perché magari il capriccio perché vuole il gelato e si è arrampicato sul frigo, è una roba banalissima. Allora, senti, però Alberto, io a questo punto direi proviamo a fare l'elenco degli aggettivi che devono farci capire il no che fa crescere. Abbiamo detto che i no devono essere pochi, sì, pochi ma buoni, spiegati, il genitore deve dare l'esempio, quali altri? Tata. Più che spiegati, programmati. Programmati, dice nella, la Tata. Almeno nella testa dell'educatore. Vuoi aggiungere qualche dettaglio a questo profilo? E poi non devono essere mai disattesi, cioè quei pochi no che vengono scelti come le regole di famiglia alle quali ci dobbiamo, esatto, attenere, devono avere pochissime eccezioni, perché una delle cose che i bambini faranno è provare a sfidare, certo, l'autorevolezza di un genitore, quindi provare a metterli in discussione. Certo. E se quei no una volta su tre diventano sì, il bambino si accorge di avere davanti un'area di debolezza che lo confonde molto. Non va dimenticato che un genitore autorevole, che sa sostenere bene il no in modo tranquillo, competente, pacato e sicuro, in realtà dà molta sicurezza anche al bambino, perché gli fa capire cosa si può fare e cosa non si può fare, e il bambino lo percepisce come protettivo, non come cattivo. C'è una bambina che non è più bambina, ma fa la bambina, che vive senza regole, è molto ammirata, vive in un mondo tutto suo. In linea con noi abbiamo Eleonora Tata, che interpreta Ciao Eleonora Pippi Calzelunghe. Buongiorno. Senza genitori e senza no, Pippi Calzelunghe ha fatto innamorare generazioni di bambini. Sì, diciamo, Pippi è appunto è una bambina che si è data delle regole da sola e che apparentemente ci siamo persi la nostra Pippi. E è una bambina che si è cresciuta da sola, è orfana di madre, il padre è disperso in chissà quale isola nei mari del sud, e quindi l'unico modo che conosce per comportarsi è quello che lei stessa si è dato, quindi è l'unico modo che le sembra anche giusto rispetto a quello che vede intorno a sé. E sentivo poco fa la signora Lucia. Sì, la tata. La tata. Sì, Pippi la tata non Lucia. Ha bisogno di tate. Esatto. Ha praticamente una tata già dentro di sé. Tutti i bambini. Sì, fa tutto da sola. Fa tutto da sola? Dicevo, stavo ascoltando prima quando il genitore impone al bambino le regole. Sì. Non so adesso. È un po' quello che succede a Pippi, nel senso che lei non sta, è insofferente verso chi impone la regola nei suoi confronti, cioè verso chi le dice cosa deve fare. Per questo, insomma, questo per lei non esiste, mentre invece ha una, come dire, una simpatia quasi istintiva verso le persone buone, corrette, che sono anche coerenti con la regola che le viene insegnata. Quindi l'autorevolezza, certo. Sì, è una cosa completamente sbagliata. È ovvio che più si è autorevoli, più il bambino non segue il consiglio dei genitori, assolutamente. Certo. Insomma. Yolanda, tu i tuoi bambini vedono Pippi? Allora, la più piccolina, proprio fin da piccola, invece dei cartoni animati, guardava Pippi Calze Lunghe. Vedi, era proprio una delle sue favorite. Proprio. C'è un po' di forse era catartico, non so, davo troppe regole. Voleva. È allegro, è il bambino, comunque bisogna dire che il bambino fa un'esperienza di vita che lo porta a crearsi delle regole. Io che non ho mai avuto mio padre perché è morto, che io non l'ho neanche conosciuto, era troppo piccola, io mi sono inventata per anni questo padre che mi diceva non si fa così. Penso. O si fa così. Quindi il bambino, grazie a Dio, la persona umana ha delle risorse eccezionali. Questo discorso che Pippi si mette le sue regole è quello, si congiunge nella nostra società così, che non può far vivere una Pippi così, o comunque magari ce ne saranno di bambini che riescono a sopravvivere così, è quello di chiedere al bambino: tu come faresti per raggiungere quell'obiettivo? Siamo tornati insieme con Mattia dalla provincia di Rimini. Mattia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io volevo chiedere un consiglio alla tata, tra l'altro faccio i miei complimenti perché è molto brava, lo seguo anche in televisione. Grazie. E volevo chiederle, io ho delle difficoltà con mio figlio per farlo mettere a tavola, nel senso, lui torna a casa da scuola, per metterlo a tavola è una battaglia, è una volta che si mette a tavola, per farlo stare un attimino fermo sulla sedia, non dico fermo perché è un bambino, però è una battaglia. È una battaglia. E anni? Per mangiare 6 anni. 6 anni. Cominciamo bene. Tata, ha fame o intanto che veniva a casa da scuola si è mangiato la focaccia? No, anzi, le dirò di più. La mattina non fa colazione perché proprio non riesce a mandare giù niente, non gli va proprio, giusto un succo di frutta. E mangia giusto la merendina a scuola. Forse una merendina un po' troppo sostanziosa? No. Mangia un pacco di cracker. Bisogna riabituarlo a mangiare al momento opportuno e le cose opportune. Quindi a poco, questo è un lavoro che dovrete fare, abituarlo per esempio alla mattina, magari a cominciare solo a bere qualcosa, poi dargli una merendina preferibilmente salata, non dolce, e poi quando viene a casa interessarlo subito a qualche cosa, condividere il tavolo dove con qualche cosa. Vediamo Alberto che a tavola ne mette 4. Alberto. Ma io in realtà, oltre a tutti questi consigli, approfitterei dei tempi tipo il weekend e i tempi delle vacanze, sì. Cioè in tempi in cui il bambino magari è meno dentro a una tabella oraria, certo. Lo farei molto appassionare alla preparazione del pranzo, certo. lo coinvolgerei nella preparazione di una pizza, di una focaccia, eccetera, in modo che poi quello che si troverà a tavola è il risultato anche proprio del suo impegno. E credo che il problema di questo bambino sia proprio un po' ricostruirgli, come diceva la tata, la relazione col cibo che se facilitata migliorerà anche la relazione poi con la dimensione dello stare a tavola. E a proposito di relazione, Niki ci sta scrivendo, state dicendo cose molto interessanti, utilissime anche per la gestione della fidanzata, perché poi certo, le relazioni... Certo, perché i comportamenti sono uguali dal giorno 0 al giorno 98 anni. Ecco, e non mettiamo limiti. Ecco. Gian Achille, buongiorno. Buongiorno. Come se la cava? Allora, io ho 5 figli maschi e 10 anni, 8, 5, 3 e 8 mesi. Perfetto. Complimenti. Complimentoni. Io quando sento... Batte Alberto Pellai. Sì, allora, secondo me la colpa è dei genitori con queste paturnie che hanno i genitori. Cioè, dove? Allora, io ai bambini ho insegnato le regole del gioco, e ho insegnato che comunque... vogliamo andare in vacanza e non ci portiamo alla tata quest'estate scorsa perché comunque faremo una settimana in più. Allora quello di 10 anni doveva vestire quello di 3 anni e preparare, fargli fare la doccia, quello di 8 anni doveva accudire all'altro fratellino, ma ogni giorno invece di farci i complimenti c'era una verifica. È vero che ci conquisteremo la prossima settimana, ogni giorno sarete verificati dal vostro atteggiamento. Certo. E quindi quando io con i miei figli vado in giro in bicicletta a Milano e i miei seguono perfettamente le mie impronte, perché comunque la Milano è pericolosa, sì, e quando io li porto a scuola si meravigliano le altre mamme, è evidente che i miei bambini ho fatto gesti plateali, ognuno ha la propria posizione. Se in seconda posizione c'è quello di 5 anni e quello di 8 anni sgarra e sorpassa, allora io lo guardo e dico, senti, evidentemente abbiamo negoziato un fatto, siccome la strada è pericolosa, adesso, ma mi è scivolata la gomma davanti, va bene, mi scivola il lucchetto, io levo la bicicletta al semaforo, adesso vieni a piedi. Senta, quindi, Gian Achille, e in tutto questo sua moglie? Mia moglie, ci cioè siamo perfettamente coerenti dove grande amore, grande affetto, ma la vita ha delle regole. Certo. Se i miei figli, cioè io ho un passato da sportivo, se i miei figli dovranno conquistarsi un ruolo nella vita, cioè questo papà angosciante che il bambino non mangia a tavola, a me è capitato 7-8 anni fa dove andavamo al ristorante e io mi aspettavo che i bambini al ristorante si comportassero in un certo modo e visto che a un certo punto uno inciampa col gomito, butta giù il bicchiere, quell'altro ridacchiava eccetera, cos'è successo? Io ho detto, signore, ho chiamato il cameriere e ho detto guardi, i miei bambini oggi sono villani, mi faccio il conto che basta, abbiamo finito, quindi poi, un castigo collettivo. Gian Achille ha fatto bene, evidentemente se questi bambini sono così attenti forse ha trovato la via giusta. Tata, un commento rapido nel senso che mi sembra che essendo lui stato uno sportivo ha messo in atto una squadra, cosa che anch'io nel mio libro dico, cioè la famiglia è una squadra dove tutti vincono, tutti perdono e si progetta un risultato insieme. Certo è che espresso così semplicemente sembra un po' una cosa molto rigida, mentre invece io vorrei vedere anche tutte le emozioni che ci sono dietro, relazionali di questa cosa. E poi chiaramente ognuno ha il suo vissuto, quindi a questo signore e alla moglie è andata molto bene, sono riusciti probabilmente perché anche loro hanno questa disponibilità, questo seguono i figli molto bene eccetera eccetera, come del resto fanno tantissime famiglie. Bisogna occuparsene molto, certo. Ecco, bisogna prestare quindi attenzione, avere pazienza. Certo. E avere anche un po' di quella saggezza che insegnavano anche le nostre nonne. Io a proposito di saggezza, qua in studio con noi, non ve l'abbiamo detto, ma è entrato silenzioso Armando Massarenti. Infatti io alle mamme blog ho detto, vedete che vi porto. Ciao Armando. Ciao. Allora, con Armando Massarenti io ho chiesto di aiutarci a, quando si dice metti un pizzico, prendi la vita con un pizzico di filosofia. Allora, dal filosofo Tascabile, l'ultimo libro di Armando, 44 ritratti per una storia del pensiero in miniatura, Guande Edizioni, proviamo a sfogliarlo e a trarre da questo libro delle pillole di saggezza, di filosofia, che ci aiutino un po' a vedere le cose, no? Sotto un'altra luce. Sì, la luce è quella appunto del pensiero filosofico, che è un pensiero critico, ma che non è un pensiero appunto dove vale tutto, dove ogni cosa può andare bene, quindi è molto in linea con le cose che abbiamo sentito finora. Io inizio questo libro con un presocratico che è Anassimandro, che grazie a questo pensiero critico e grazie anche al fatto che ha messo in discussione in maniera critica il suo maestro, che era Talete, è riuscito a capire una cosa molto semplice ma veramente rivoluzionaria, cioè che la Terra non è che noi, la nostra percezione quotidiana di un cielo che sta sopra e la Terra che sta sotto è fallace, ma è semplicemente che c'è una Terra tutto intorno e cielo tutto intorno. Sembra una banalità, ma tutte le mitologie dell'antichità non c'erano arrivate, e il pensiero greco ci è arrivato proprio per questo, cioè grazie appunto a un pensiero critico. Ma questi microritratti, in realtà, se noi vogliamo cercare una saggezza, è quello che ho cercato di fare in questo libro, partono appunto dai presocratici, arrivano a Wittgenstein, passando per Cartesio, Schopenhauer, Nietzsche, insomma tutti i più grandi filosofi, anche alcuni un po' più strani come gli scettici, per esempio. Ecco, la saggezza che possiamo trarre è diversa ogni volta, insomma. Sì. Sono le loro vite che sono talmente varie, talmente diverse, divertenti, anche buffe, anche strampalate a volte, hanno anche e muoiono a volte in maniera molto... Io metto l'accento anche su queste cose. Noi possiamo trarre proprio dal confronto tra vita e tra la loro vita, il loro modo di condurre la vita e la loro filosofia. Spesso straordinariamente coerente, spesso invece assolutamente incoerente, cioè predicano in un modo e poi si vede che razzolano in tutt'altro modo. Quindi, questo li rende molto divertenti. I filosofi che razzolano. Esatto. Sì, si parla spesso di parlato di gallinacei, perché ci sono una serie di problemi che sono esemplificati, come il famoso... Ecco, ma ad esempio, rimanendo nell'ultima... Proprio, noi oggi abbiamo parlato di quanto sia difficile dire no ai bambini, anche dire, accettare noi da adulti dei no. Pescando da questo tuo libro, un modo per insegnare ai genitori, a noi che siamo qua, a dire un no costruttivo, chi ce lo insegna? E il no costruttivo lo dice proprio il pensiero critico, cioè ci fa capire che non dobbiamo mai essere dogmatici, come c'era un bambino che sì, ci pensava sempre di avere l'ultima parola. Ecco, noi dobbiamo insegnare anche ai bambini a non essere dogmatici. Questa è una cosa difficilissima, perché appunto bisogna trovare quella via di mezzo tra non dire sempre no e saper dire no appunto nel momento giusto, ed è proprio la capacità critica che si... e soprattutto non dobbiamo mai avere l'idea di avere risolto una volta per tutti i problemi, certo, che riguardano le nostre vite, cos'è giusto, cosa non è giusto, cos'è la verità, cos'è la falsità, cos'è bene, cos'è male, ed è un po' questo il senso del ecco, libro attraverso questi flessibile, continuiamo a farci domande e noi ce ne faremo altre, proveremo a diventare un po' filosofi nel corso di questa settimana insieme ad Armando Massarenti. Saluto le mie mamme. Un bacio alla tata Alberto, saluto anche te, noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, buona giornata.